Vai per entrare dentro le questioni, per cui credo che sia importante farlo anche più speditamente possibile, così abbiamo il tempo poi di elaborarle tutte. Per questo ho chiesto a Michele, che mi ha concesso il fatto di anticipare il mio intervento, proprio perché, per esempio, io non sono d'accordo quasi su niente di quello che ha detto Michele nell'introduzione, e volevo dire perché. Vabbè, sulla questione primarie, eccetera, eccetera, c'è anche Simona che interverrà e credo che sia una cosa importante. L'unica accortezza di evitare, secondo me, un'operazione un po' brutta che hanno tentato di fare su questo tipo di, da più parti, cito solo quella più autorevole e pericolosa, cioè Pisanu, ecco. Qui non è un'operazione politica del Nord-Est o di un partito clandestino formato da qualche personaggio così con la fedina penale non propriamente pulitissima. Qui è, questa iniziativa parte da 10 regioni in Italia, poteva essere solo così perché sennò le 12.000 firme non venivano raccolte, ed è una opzione politica così contraddittoria, però è un tentativo di interpretare questa fase politica. Non so se ci riusciamo, certamente questa è la natura delle cose. C'entra niente il Nord-Est, dove di certo c'è un dibattito politico molto forte, perché tra l'altro sulla questione amnistia e processi eccetera possiamo dire una parola in piazza, perché chiaramente è uno dei luoghi d'Italia di movimento più colpiti anche dal punto di vista delle statistiche dalla repressione, per cui chiaramente c'è un dibattito che è molto profondo rispetto a sto problema contingente. Alcuni di noi dal prossimo anno cominciano ad andare definitivi senza l'affidamento e senza gli arresti domiciliari, per cui c'è il problema della galera, per esempio. Per cui, ecco, tanto per dire qualcosa. Comunque, di questa cosa io preferirei che Simona, che è la compagna, che sfortunatamente per lei gli è toccato di fare questa cosa dal punto di vista pubblico, e noi la ringraziamo tutte le volte perché è una rottura di coglioni mostruosa, perché è evidente che poi si scarica su un compagno o una compagna che magari ha la sfortuna di dover fare questa cosa in termini pubblici, il meccanismo della rappresentanza generale. Questo lo conosciamo bene come meccanismo. Lei è una compagna che si è prestata, perché gliel'abbiamo chiesto in tanti, a fare questa cosa. È una compagna occupante di case, quindi non è che sta a fare qualcos'altro, però ha accettato di essere il parafulmine o la voce molto difficoltosa, contraddittoria, eccetera, di questo percorso. È giusto che lo spieghi lei, anche perché, eccetera. Però al di là di questo, io volevo entrare nel merito secco della questione. Allora, questa assemblea è stata fatta, da quello che ho capito io, a parte sto cazzo di processo di Cosenza, speriamo che vada più in là possibile, il fatto che oggi non siamo in aula, oltre che per scelta, è perché rinviano a data da destinarsi, credo che quando un tribunale dell'Inquisizione formato da un servo come Fiordalisi, da sgherri come quelli dei Ross, Digos e tutti quelli che abbiamo sotto noi, che siamo imputati, eccetera, tentenna, per noi è sempre una felicità. Per noi è sempre una grande felicità, dopo che si vada in aula, non si vada in aula, chissà, io lo dico con tutto il cuore, chissà che non riescano mai a formare il collegio giudicante, che non riescano, perché chiaramente un tribunale dell'Inquisizione, l'unico sistema è quello di attaccarlo, è quello di destrutturarlo, è quello di destrutturare la sua logica. La sua logica è un attacco politico a degli attivisti politici, a delle aree politiche che sono extraparlamentari, e per questo sono sotto tiro. Siamo accusati di cospirazione politica, associazione sovversiva e chi più ne ha più ne metta. Questo significa per noi delle restrizioni. Faccio un esempio: Claudio Dionisalvi, che è un nostro compagno imputato, non ha potuto recarsi in Chiapas quest'estate. Perché? Perché è stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino, perché gli Stati Uniti hanno l'elenco degli inquisiti di Cosenza che non possono più sorvolare gli Stati Uniti per motivi antiterrorismo. Quindi questo è un processo politico, siamo accusati di questo perché siamo extraparlamentari innanzitutto e perché rivendichiamo, adesso io parlo per me, ma sono sicuro di, che questa è un po' la dinamica anche un po' di tutti, rivendichiamo il diritto a lottare anche in forma radicale contro questo mondo, e questo ci ha portato ad essere presi e sbattuti dentro a quel tipo di meccanismo con tutto quello che succede. Io sono reduce da una cosa analoga a Venezia, un'operazione antiterrorismo una settimana dopo le bombe di Londra, perquisizioni domiciliari con l'antiterrorismo di Roma, ribaltamento delle case, portati via con le scorte, non ci hanno detto nulla fino all'una del pomeriggio dalle 6 di mattina che ci hanno prelevato, un po' come fanno con gli imam di cui nessuno parla o parlano troppo in pochi, gli squadroni, no? Con i passamontagna, poi si legge sui giornali, no? Hanno prelevato l'imam di Cuneo, la moglie e i bambini piangevano terrorizzati, alle 3 di notte qui passamontagna l'hanno prelevato e portato via, non si sa dove. Queste cose in Cile si ricordano, in Cile si ricordano, nei paesi del Sud America, eppure succedono nel cuore dell'Europa, e a mio avviso stiamo facendo troppo poco su queste cose qua. Le leggi speciali, finché noi discutevamo con Nicky Vendola in Puglia sulla questione dei CPT, un'iniziativa che ha portato a dire un po' a tutti basta con questi CPT, hanno varato le leggi speciali una settimana dopo. Cioè, mentre noi discutiamo di chiudere i CPT, questi non solo non chiudono i CPT, cioè i CPT non si chiudono, fra 15 giorni apre Bari, Gradisca è il più grande CPT d'Europa e non c'è verso, e rispetto a quel meccanismo lì sembra che lo aprano. No, hanno varato pure le leggi speciali, per cui siamo in presenza di un mondo, voglio dire, e anche di una democrazia, anche quella rappresentativa, non malata, ma fortemente morta. Cioè, voglio dire, com'è possibile che in un paese ci siano dinamiche di discussione politica che vanno da una parte e dall'altra parte tutto avviene normalmente come se niente fosse? Come se niente fosse. Non serve avere un sacco di rappresentanti democratici in Parlamento, perché tanto queste cose avvengono e non solo. Quando si è aperto il dibattito sui CPT, a me non interessa, cioè voglio dire anche tutto questo discorso allora, quando furono istituiti, ma quando si è aperto adesso il dibattito sui CPT, noi siamo stati in presenza di autorevoli esponenti del futuro governo di centrosinistra che hanno detto noi i CPT li manteniamo. Cioè, non è che questa cosa non modifica anche la percezione di cosa abbiamo di fronte nel Parlamento, in questa dinamica istituzionale, eccetera. Non è che il problema è che dobbiamo metterci d'accordo tra me e Graziella Mascia di non litigare. Qui c'è un problema di opzioni politiche e di costruzione di un meccanismo che costringa a cambiare. Cioè, non è che noi dobbiamo lottare per cambiare anche in forme che non sono previste dall'ordinamento parlamentare. Questo mi sembra ovvio. Faccio un esempio. Gli smontaggi dei CPT, io ho preso un anno a Trieste, senza condizionale, confermato in appello, per la lotta contro il CPT di Porto Vecchio, di Trieste. Cosa abbiamo fatto? L'abbiamo fatto chiudere. Ci siamo dovuti scontrare con la polizia. Ma non perché volevamo noi scontrarci con la polizia, perché era l'unico modo per far venire fuori questo affare che c'era chiuso lì dentro in una dogana, per cui impossibile accesso a giornalisti, ad avvocati, eccetera, eccetera. C'era il governo di centrosinistra. Questa è andata così. Per cui che ci sia l'urgenza, cioè non è che i movimenti segnalano i temi. Perché i temi li hanno chiari tutti al mondo, basta guardarsi attorno. Cioè viviamo in un mondo dove, insomma, credo di sfondare una porta aperta, i temi li abbiamo tutti chiari, no? Certo, i movimenti contribuiscono a farli circolare, ma non è che adesso i movimenti servono a porre i temi. I movimenti sono anche le pratiche, sono anche un'alternativa, è come in Iraq. Ma se non c'era una dinamica di resistenza che a noi può non andar bene, che non capiamo, che... Ma noi stavamo qui a discutere della guerra in Iraq, se gli americani facevano tabula rasa e nessuno faceva assolutamente, cioè non si muoveva paglia? Stavamo qui a discuterne, no, stavamo a discutere come facciamo a liberarci di una macchina infernale che quando arriva in un posto in 15 giorni azzera tutto, fa 100.000 morti e nessuno dice più un cazzo. Questo è un dato di fatto, cioè i movimenti segnalano anche l'urgenza di percorrere nuove strade rispetto alla democrazia che conosciamo, che è quella del Parlamento, che è quella dei voti dei partiti del Parlamento. Questo non è, non mi si può attribuire una volontà di rottura perché diciamo queste cose qua. È questo il lato che io non riesco mai a entrare dentro, perché è un lato contraddittorio. Ad esempio, il dibattito violenza non violenza, ma santi Dio, ma non è che uno dice, no, io sono il partito della violenza e tu sei il partito della non violenza, ma che razza di discorso è in un mondo del genere? Un conto è dire, fare una riflessione sull'efficacia, ma un altro conto è fare una campagna politica, pubblica, sul fatto che possa esistere un meccanismo di divisione netta tra violenza e non violenza in un mondo governato, tra l'altro, da dinamiche di controllo parapsicologico comunicativo, per cui la violenza, per esempio, è anche immateriale dentro questo mondo. È fatta di controllo delle informazioni, è fatta di controllo della tua vita. Quante intercettazioni telefoniche ci sono in Italia? Quella è violenza o no? Della privacy di una persona, di come sta una persona. Io so che quando parlo al telefono con chiunque, so che mi stanno registrando e sanno tutti i cazzi miei. Questa qui è violenza o no? Cosa gli posso fare io? Tra l'altro scopro poi che le ditte che utilizzano per intercettarci sono anche quelle che sono al mercato, cioè nel senso hanno i negozi, perché ci sono negli atti di Cosenza tutti i soldi che hanno speso per intercettarci, ma sono tutte ditte private. Allora, dentro a questo meccanismo, ma come possiamo non capire che c'è una riflessione, che i movimenti portano? È questo che io credo che i partiti della sinistra radicale dovrebbero fare uno sforzo per riuscire a capire. Io ragiono in termini, tra virgolette, di buona fede, ovviamente. Poi so perfettamente che ci sono scelte politiche, perché non siamo qua a raccontarcela, ci sono scelte politiche, strategie, tattiche, percorsi, opportunità che vengono colte, eccetera, ognuno fa le sue, ma io, se devo discutere a questo livello, preferirei farlo in maniera concreta, cioè, nel senso, qua ci sono i movimenti, segnalano delle opzioni politiche che vanno anche verso il fatto, per esempio, si apre il CPT di Bari, dopo che Nichi Vendola ha fatto tutta la roba con i governatori, dopo che siamo andati dappertutto, dopo che prendiamo anni di galera, ma non è giusto tentare di far evadere quelli che sono dentro? Questa è la discussione. E se ci tocca per fare questo fare un buco nel muro, è violenza. Questa è la discussione vera, che parte da dati concreti. E anche questo ragionamento sull'illegalità, ma è una dinamica che noi dobbiamo discutere, perché siamo nel tempo della guerra globale permanente, dove la diserzione, la disobbedienza, le pratiche non sono un optional, non sono un optional. Lo vediamo, perché se attendiamo un attimo il discorso di quello che sta succedendo, oh ragazzi, per tagliare una pompa della Esso in pubblico prendiamo un anno. Il che vuol dire che noi dobbiamo porci il problema che qua si stanno restringendo gli spazi per tutti, anche del dissenso creativo, chiamiamolo così. La crisi della disobbedienza nasce in via Tolemaide, perché lì viene segnalato il fatto che entra in gioco la guerra. Sappiamo che è un meccanismo per fortuna contraddittorio per loro, che ci sono ancora spazi, ma non è che possiamo far finta che le cose succedano, tra virgolette, perché c'è un meccanismo in cui noi vogliamo farle succedere e poi gli altri si comportano di conseguenza. Io credo che questo sia un ragionamento, i movimenti pongono questo nel mondo, come lo pone le ZLN in Chiapas, che però è in armi, non spara, ma ha le armi. Come lo pongono in Iraq, lo pongono in Palestina, lo pongono in Bolivia, in Venezuela, ovunque. Ovunque si tratti di difendere e di costruire nuova democrazia, anche nuove forme. Io credo che quella del Parlamento italiano sia una delle più limitate forme di democrazia conosciute. Questa è la verità, dopo, se volete la mia opinione. E allora, questa cosa, come si chiama? Tradotto nel codice penale, si chiama sovversione. Questo è il codice penale della Repubblica Italiana, ok. Tradotto con i linguaggi nostri, di persone per bene che vogliono rispondere a delle ingiustizie, si chiama di creare dinamiche nuove di auto-organizzazione sociale, di ricerca di forme nuove di decisione collettiva e di pratica, di applicare questa decisione. Quante volte ci siamo detti a Seattle cos'è successo? Per la prima volta dopo anni che c'erano i controvertici, qualcuno ha deciso di bloccare l'altro vertice, perché c'è stato un luogo che era più importante di tutte le autorità ufficiali esistenti, che ha deciso che quella era la cosa da fare, e tutti hanno praticato quella decisione collettiva. Questo è il nodo. No, non se noi riusciamo, no, a spostare una transenna della polizia, o se gli tiriamo una pietra e speriamo li becchiamo in testa una volta ogni tanto addosso. Il nodo è politico, culturale, questo è il fatto, perché siamo di fronte a un mondo che senza una dinamica di rottura pesante col meccanismo, adesso ritorna in auge l'ONU, vi rendete conto? Possiamo noi pensare a un mondo che funziona meglio ancora con l'ONU? Un'altra volta, ancora con gli stati, il Consiglio di Sicurezza, membri del Consiglio di Sicurezza, la pantomima con la Corea del Nord, dopo l'Iran, ancora vogliamo stare dentro questo meccanismo e basta. Io poi in un contesto che uno scelga di fare questo, cioè questo meccanismo del cambiamento in una maniera, nell'altra, in quell'altra ancora, però questo è il nodo. Allora, a me sembra che siamo pesantemente in ritardo nella discussione dentro la sinistra radicale, per usare un termine che tutti capiscono, quindi che è dentro e fuori, siamo pesantemente in ritardo rispetto all'elaborazione di questo tipo di elemento. E se permettete, sul piano anche della costruzione dell'opinione pubblica, a noi è mancata la complicità. Noi siamo ancora in uno Stato dove la polizia che ha torturato a Genova viene promossa, e non ci sono neanche i poliziotti col numero nel casco. Se qualcuno vuole fare il democratico nel Parlamento, su questo si incateni, non presenta le mozioni, si incateni davanti al Parlamento. Perché questo è il nodo. E, qua, e se permettete, quando la discussione diventa i manifestanti sono violenti se portano il casco oppure no, dopo il 4 ottobre, a uno gli girano i coglioni. Gli girano i coglioni perché siamo di fronte al fatto che abbiamo poliziotti pagati, che sono dei killer, che non hanno sistemi di identificazione, che sono quelli che hanno torturato, eccetera, e non succede praticamente un cazzo sul fronte dei democratici. Se succede sul fronte, tra virgolette, degli extra, succede allora processi, inquisizioni, sovversione, terrorismo e via discorrendo. Allora, su questi nodi qua, io credo bisogna utilizzare tutti gli spazi possibili per discutere a questo livello. A me non me ne frega niente. Cosa vuol dire mettersi insieme per stare insieme? A chi se ne frega? Ci mettiamo insieme, siamo d'accordo su delle cose da fare. Se c'è un'omogeneità politica, che cosa me ne frega? Insieme posso andare al bar e bere una roba. Ma se facciamo azione politica, o ci diciamo che questo è la dinamica. Dopodiché, finisco, diciamo, questo lato qua. Ma anche rispetto a questa questione dell'amnistia. Ma io ho capito che è bloccato. Questo dimostra ancora una volta quanto sia bloccata la dimensione del Parlamento, quanto faccia schifo quel cazzo di Parlamento e questo sistema cosiddetto democratico dove tutti voti, voti, voti. A che cazzo serve se hanno fatto delle leggi per cui è impossibile modificare un cazzo? No, eppure mi sembra che i padroni, quando si pongono il problema di evitare la galera, quelli ce la fanno. Allora, detto molto sinceramente, ma questa roba dell'amnistia generalizzata, ci sono 60.000 persone in carcere, i suicidi stanno aumentando, c'è una situazione che per ogni persona per bene, no, di sinistra, è una situazione intollerabile, dovrebbe essere. Mi sembra che stiamo facendo poco, dobbiamo fare di più, a tutti i livelli, e mettiamo al centro questa cosa. Allora, per esempio, si può formare un governo di centrosinistra se dentro al programma dell'Unione non c'è l'amnistia come cosa imprescindibile? Si può formare il governo di centro-sinistra se dentro al programma dell'Unione non c'è la chiusura dei CPT un giorno dopo che vai al governo? E questo pongo io. Dopodiché io continuo per la mia strada, ognuno continua per la sua, però non prendiamoci per il culo. Grazie.